Vi leggo nella sua integrità un trafiletto qualsiasi pubblicato questo 25 novembre su un quotidiano nazionale. Dunque, aperte le virgolette, a Peccioli, o Peccioli, non saprei, cittadina della provincia pisana, è nato il primo museo italiano di icone russe. Le opere risalgono al XIX e primi del XX secolo e sono state donate dal giornalista Francesco Pigazzi, toscano, profondo conoscitore della Russia dove lavora da anni. Alle 60 opere ne sono state aggiunte temporaneamente altre 20 provenienti dal Cerberusian Museum di San Pietroburgo, che ha curato il restauro. In occasione della mostra sono stati aperti colloqui internazionali e riflessioni sul rapporto tra icona e secolarizzazione. Il lettore legge e passa oltre senza indugiare. La notizia è manifestamente priva del minimo interesse per chiunque, salvo per chi sia molto appassionato di icone russe, ma proprio tanto, o conosca di persona il giornalista Francesco Pigazzi, o viva per sua avventura a Peccioli o Peccioli in provincia di Pisa. Ma una certa attenzione potrebbe dedicarvi anche chi fosse interessato a cogliere i segni della decadenza del giornalismo italiano nella comparsa su una testata di una certa levatura, poi vi dico qual è, di una nota così mal scritta e così manifestamente scorretta, oltre che dal punto di vista della punteggiatura e della sintassi, anche da quello dell'informazione. L'anonimo estensore, per esempio, ha dimenticato di dirci di che cosa ha curato il restauro il celebre museo di San Pietroburgo, il Cerberusian Museum di San Pietroburgo. Se delle 60 opere originali, delle 20 in esposizione temporanea, di tutte 80 o di che altro. E a proposito di quei colloqui internazionali e riflessioni, si è guardato bene da farci sapere chi li ha aperti, chi vi partecipa e in che forma si svolgono. Ma queste naturalmente sono miserie su cui non vale la pena di soffermarsi. Da quando un numero crescente di redattori viene dalla scuola di giornalismo, succede anche di peggio. C'è un passaggio in realtà che dovrebbe interessarci tutti un poco di più. Dunque, qual è? Alle 60 opere ne sono state aggiunte temporaneamente altre 20 provenienti dal Cerberusian Museum di San Pietroburgo. Perché diavolo a pensarci bene un articolo su un giornale italiano che parla di un museo russo deve denominarlo in inglese? Perché Russian Museum è inesorabilmente inglese. E i nomi stranieri, secondo il costume invalso, o li si traducono, scrivendo per esempio il Museo di Arte Moderna di New York, o vi si lasciano nell'originale sottolineando la scelta con un uso opportuno del carattere corsivo. Il corsivo Museum of Modern Art, chiuso il corsivo di New York. Ma di un ente che avrà presumibilmente una sua denominazione originale in russo, si chiamerà Ruski Museum o qualcosa del genere, non c'è motivo alcuno di parlare in inglese a degli italiani. L'inglese certo serve da lingua franca tra interlocutori che ignorino gli uni il linguaggio degli altri, ma questo non dovrebbe essere il caso di chi ha scritto quella notizia e di chi la legge. E allora presumibilmente si tratta di un classico esempio di ossequio mal riposto. Alla base del tutto, se ricordo ancora qualcosa di come funzionano i giornali, deve esserci una qualche comunicazione in inglese. Che so, una corrispondenza dal Museo di San Pietroburgo, e quello di Peccioli o Peccioli. O un comunicato stampa internazionale, non so, qualcosa scritto in inglese per motivi seri. Chi se n'è servito per confezionare la notizia, in un'agenzia quindi, e non ha avuto il coraggio di tradurre il nome proprio, quello che ha supposto essere il nome proprio, perché in quella città di musei russi o che croce devono essercene più di uno, comunque non ha avuto il coraggio di tradurre quel nome. Quell'espressione in quella lingua, in inglese, gli sarà sembrata più autorevole. Non ha pensato che in quel contesto, quel nuovo contesto che lui stesso stava creando, l'inglese non c'entrava assolutamente niente. Anzi, forse sei illuso, povero disgraziato, che il suo uso avrebbe ravvivato una notizia smorta. Poi, naturalmente, chi ha trasportato il pezzo dall'agenzia alle pagine del suo giornale si è ben guardato come si usa di fare il minimo cambiamento. Ora, io spero che non mi accusiate di buttarla sempre in politica, ma secondo me c'è un aspetto da prendere in considerazione. L'inglese non è soltanto una comoda lingua franca internazionale, è anche la lingua egemone a livello planetario in quanto espressione della potenza politicamente e militarmente dominante. Per questo noi sudditi, a meno che siamo proprio entusiasti dall'essere tali, dovremmo starci come minimo un po' attenti, usandola quando è necessario e astenendocene quando no. E scusate, ma è anche una questione di principio. Non faccio, è una questione di purismo, lo sapete anche voi dopo tutti questi anni che io personalmente do spazio ogni sorta di termini non italiani, anche inglesi, e non sempre mi prendo la briga di metterli al corsivo. Ma cerco di farlo solo se ce ne vedo un motivo qualsiasi. Dico mister invece che giallo perché secondo me in certi contesti è più preciso. Adesso forse mi sbaglio, ma mi sembra che il caso che vi ho segnalato, proprio perché è un caso minore, non intenzionale, dovuto presumibilmente a motivi di pura indolenza e sciatteria, sia particolarmente inquietante, perché vuol dire che a certe forme di ossequio siamo talmente avvezzi che non ce ne accorgiamo neanche più. E visto che il quotidiano in questione non è né Libero né il Giornale, ma ahimè è il Manifesto, capirete anche voi che qualche motivo di preoccupazione sia giusto averlo. Los aires.